saremmo certi come fossimo eterni per abbandonarli un giorno chissà dove. Facciamo mille esperienze, ci affezioniamo alle apparenze, poi speriamo di non perderci mai. Abbiamo tutti una paura, la sola, sola, restare immersi nel tramonto la sera, guardarci intorno e non trovare nessuno da ricordare dentro i nostri sogni sereni. Sera, guardarsi intorno non vedere.